presenta. Focus Economia. Di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia l'ultima puntata di Focus Economia della settimana. I temi di questa giornata economico-finanziaria, come alcuni di voi avranno già ascoltato dal nostro GR24, oggi è stato sentito, ci riferiamo alle banche chiaramente, ai crack bancari e alla commissione bicamerale d'inchiesta. Dicevo, è stato sentito l'ex amministratore delegato di Veneto Banca, Vincenzo Consoli. E la sua dichiarazione, che è stata più ripresa, è quella che riguarda di nuovo l'allora ministro Marianna Boschi, che partecipò a un incontro con i vertici Banca Etruria di Veneto Banca nella casa di famiglia d'Arezzo nella Pasqua del 2014 per un quarto d'ora, nella quale non proferì parola, dopodiché si alzò e andò via, così dice Consoli. Su questo segnalo anche l'intervento del Premier Gentiloni, che dice: il ministro Boschi ha chiarito le circostanze emerse nell'audizione. Spero bisticci su banche non dominino la discussione. E poi ha detto che, insomma, il ministro Boschi è giusto che si candidi e che non si dimetta, così come commento analogo lo ha fornito anche oggi il ministro Calenda. Lo avremo chiaramente in apertura, dopodiché ognuno può fare le valutazioni di carattere politico che vuole. Come sempre anche la nostra classifica, oggi in forma un pochino più accorciata, perché non vogliamo, è una specie di regalo di Natale che faremo questo venerdì e il prossimo venerdì, per evitare di rovinare il weekend e il periodo natalizio. Andremo a fare solo non più una top 5, ma una top 3, cioè medaglie d'oro, di argento, di bronzo, se vogliamo chiamarle in questo modo. E poi invece il tema della web tax, perché c'è stata una firma tra l'Agenzia delle Entrate Amazon su accertamento con adesione per risolvere le potenziali controversie relative alle indagini fiscali, e Amazon verserà 100 milioni di euro al fisco italiano. Ricordo che da un lato c'è stata l'iniziativa questa settimana di Facebook, che ha deciso che contabilizzerà i ricavi là dove li realizza. Sembra ovvio, ma non era così, perché sappiamo che contabilizzavano i ricavi attraverso una triangolazione dove più gli conveniva, non dove effettivamente venivano realizzati, quindi a Dublino. Ma l'accordo di Amazon ricorda quello siglato col fisco italiano da Google, un accordo da 306 milioni per i contenziosi fiscali del periodo 2012 e 2015. Questo ci permetterà anche di ragionare su quello che sta capitando, e attenzione, perché non è solo un tema, è in primo luogo un tema di equità fiscale, cioè se, così come chiedi all'artigiano, al commerciante, al dipendente di pagare tutte le tasse in Italia, se i ricavi sono fatti in Italia, lo chiedi anche ai colossi del web. C'è poi un tema più di ampio respiro, ma vi arriveremo. È un ragionamento che fece il procuratore capo di Milano, Greco, Francesco Greco, qui in un convegno, o meglio, un convegno dedicato in occasione dei 10 anni del programma di Raffaella Calandra, Storiacce, dicendo: attenzione, c'è un problema non solo di equità fiscale, ma anche di sostenibilità del welfare. Ossia, se è vero, come è vero, che i giganti del web distruggono anche posti di lavoro, e non sempre in questo periodo di transizione si riesce a rimpiazzarli con nuovi posti di lavoro, e che quindi c'è una situazione comunque, anche se fosse solo di transizione, da gestire a livello di welfare dei singoli stati, quindi cosa fai, come aiuti chi perde il lavoro, come lo riqualifichi, come garantisci comunque i servizi minimi di sussistenza. Beh, i soldi dei giganti del web non sono solo un problema di equità fiscale, ma anche di, diciamo, compensazione, voglio usare questo termine, da parte di chi sta modificando, distruggendo anche posti di lavoro, agli stati, in modo che gli stati, se virtuosi, possono avere delle risorse da spendere per aiutare chi perde il posto di lavoro e comunque per aiutare e fornire livelli di assistenza in un momento di grandissima trasformazione. È un ragionamento un po' più sul medio termine, ma forse ancor più forte e ancor più strategico che non il semplice dire paga le tasse come tutti gli altri. Ne parleremo più avanti. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook. Sull'opportunità, molti mi stanno scrivendo sull'opportunità che la Boschi, in un incontro dove c'era il padre che incontrava consoli, quindi vicepresidente, che incontrava il numero 1 di Veneto Banca, fosse presente. Questa è una valutazione politica, nel senso, non ci sono. E il tema, mi dispiace ripetermi, ma è quello di ieri. Nel merito, l'intervento di Vegas e oggi Consoli non muovono nessuna accusa né di pressione, ieri lo ha chiarito molto, molto bene Vegas, nessuna pressione, nessuna ingerenza. E Consoli ci tiene a precisare che la Boschi fu zitta e non parlò. Poi sull'opportunità politica e sull'effetto politico che questa vicenda ha sul PD e su un esponente così importante del PD, ognuno può fare le sue valutazioni, ma è chiaro che c'è un effetto altamente negativo che tra l'altro, come molti osservatori fanno notare oggi sui giornali, rischia forse quasi un eufemismo, di far passare in secondo piano, far passare in cavalleria, far scomparire l'iniziativa dello stesso Renzi nei confronti del PD, nei confronti della Banca d'Italia, che fu criticata come metodo, ma che molti apprezzarono nel merito. Beh, è chiaro che questa iniziativa di cercare le vere responsabilità negli organismi anche di vigilanza viene oggettivamente offuscata da quello che è la bagarre attorno al ruolo dell'allora ministro, attualmente sottosegretario Boschi. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Dicevo, andiamo subito con le notizie in breve, partendo come sempre dalla borsa. Allora, a livello internazionale oggi segnaliamo il messaggio, diciamo, del presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi, è il leader dell'Euro Summit, ha detto servono riforme in casa e nell'area euro, dobbiamo essere pronti in caso di nuove sfide. E poi il leader dell'area euro ha detto Draghi bisogna completare l'unione bancaria. Su questo sono intervenuti anche il presidente francese Macron e la cancelliera tedesca Angela Merkel in una conferenza stampa congiunta al termine del vertice dell'Unione Europea. Troveremo una soluzione comune sulla riforma dell'area euro perché ne abbiamo bisogno, c'è la volontà di farlo da parte sia della Germania che della Francia. Per quello che riguarda la Brexit invece, Tusk ha detto che sarà drammaticamente difficile concludere il negoziato con la Gran Bretagna sulla Brexit entro i tempi previsti. E poi sulle quote obbligatorie di ricollocazione dei rifugiati, Tusk ha detto non ho cambiato idea, e sottolineando a differenza di Juncker che era seduto al suo fianco, è quello che serve un metodo efficace per fermare il flusso di migranti. E le aspre reazioni della mia posizione sono la dimostrazione che le quote non sono la soluzione, anche se è quello su cui si è perso più tempo. Ora Tusk fa il gioco dei paesi dell'area del nord, perché è chiaro che le quote, il ricollocamento delle quote è una soluzione di emergenza, ma è altrettanto chiaro che o Tusk per primo ci dice come si fanno a bloccare, e tra l'altro l'Italia sta facendo un lavoro enorme in Libia, non a caso i flussi sono anche crollati e manderemo pure i militari, diciamo, al confine tra la Libia e il deserto per bloccare i flussi migratori, ma o ci viene detto chiaramente cosa e come si fa a bloccare i flussi migratori, o se no questa è una presa in giro, perché è chiaro che nel momento in cui tu hai alcuni migranti che sbarcano, dire che le quote non sono la soluzione significa dire sostanzialmente ai paesi che si tengono gli immigranti che sono sbarcati. Allora, mi scrive un'ascoltatrice, dottor Barigioni, grazie per il baciamano alla Boschi. Baciamano si fa come atto d'eleganza, qui non c'è nessun baciamano all'allora ministro e attualmente sottosegretario Boschi, però invito comunque, se si riesce, capisco che stia partendo la campagna elettorale, se si riesce comunque a non diventare sempre manichei o bianco o nero, a distinguere tra il merito, cioè che ruolo ha avuto la Boschi nel crack di Etruria, nella gestione di Etruria, e non è emerso alcun ruolo né nelle dichiarazioni di Vegas né nelle dichiarazioni di oggi di Consoli per quello che riguardava l'operazione Vento Bank Etruria e altro. Tra l'altro lo stesso Vegas dice, ha chiesto a me delle cose per cui io non ero deputato, come le aggregazioni bancarie. E quindi questo è il tema del merito. Poi uno distingue tra merito e opportunità politiche e ricadute politiche, che nulla c'entrano con il crack in senso stretto, ma che ci sono, ed è innegabile, basta aprire i giornali oggi, lo dicevamo anche ieri, è innegabile che questa vicenda, una ricaduta politica sul ministro, sul sottosegretario Boschi e sul PD, e quindi anche sul governo, ma soprattutto sul PD, ce l'ha. Andate a vedere le proiezioni anche di voto e vedremo quello che sarà l'eventuale danno sull'indicazione di voto, ma questo riguarda, diciamo, la valutazione politica, non la valutazione del crack di Etruria e di come si arrivò a quel crack, di come non venne capita la direttiva europea, se ne è occupato fino a poco minuti fa Oscar Giannino, e è lì con delle colpe, a mio avviso, non solo nei manager ma anche negli organismi di vigilanza, perché veniva chiaramente detto che con la nuova direttiva gli strumenti, le obbligazioni strutturate non potevano più essere vendute alla clientela, perché partecipando al fallimento bancario, cioè il famoso bail-in, veniva detto vanno vendute questo tipo di strumenti soprattutto, principalmente, prevalentemente agli investitori istituzionali, perché il risparmiatore classico non è in grado di capire, poi non gli fu nemmeno spiegato, figurati un po'. E il governo stesso allora arrivò, scambiandosi anche accuse con Banca d'Italia, a novembre 2015, a capire che da gennaio sarebbe iniziato il bail-in, quindi pagavano anche gli azionisti, pagavano anche gli obbligazionisti delle varie categorie. Quindi questo è il problema su perché non è stato detto chiaramente non puoi vendere queste obbligazioni, si sono continuate a vendere. Nel caso delle quattro fallite, poi c'è il tema della Vicenza di Veneto Banca, per cui insomma basta distinguere tra due cose. C'è merito? No, non c'è merito da quello che abbiamo visto. C'è una conseguenza politica di queste audizioni? Certo che c'è su PD. Allora, dicevo le borse, meno 0,23% Milano, meno 0,21% Parigi, più 0,20 Francoforte, Londra più 0,37, Dow Jones più 0,60, euro su dollaro quota 1,17, e ancora Poste Italiane bene più 3,70, Moncler più 1,30, Mediaset più 1,1, A2A più 1%, Telecom mezzo punto percentuale di rialzo. Il fronte opposto invece, per quello che riguarda l'andamento del, come sempre, listino principale, vede Ferragamo perdere parecchio, il 6,25%, Banco BPM il 2,70%, Mediobanca il 2,30%, Exor meno 1,80% come Unicredit, Ferrari meno 1,30% come Boots Unicem, STMicroelectronics, Recordati e Campari. (Oh) 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Andiamo subito con le altre notizie in breve. Torniamo quindi all'Italia. Il bonus mamme, l'INPS darà attuazione all'ordinanza del Tribunale di Milano che ha chiesto all'istituto di dare il premio alla nascita alle mamme straniere che hanno avuto un figlio nel 2017 in possesso di qualsiasi permesso di soggiorno. L'INPS dice daremo il premio alla nascita anche alle mamme straniere con permesso. La Banca d'Italia alza le stime, anche la Banca d'Italia alza le stime sul PIL che quest'anno vede all'1,7%, 1,6% scusate, più 1,4% nel 2018, più 1,3% nel 2019. L'occupazione crescerà nel quadriennio 2017-2020 più 4%, la disoccupazione dovrebbe scendere ma molto molto lentamente, nel senso che la Banca d'Italia lo stima la stima al 10,5% ancora nel 2020. Faccio notare che siamo all'11, eravamo l'anno scorso all'11,7%, quest'anno intorno all'11%. Dire che la disoccupazione scenderà al 10,5% nel 2020, per carità, può voler dire che più persone cercano lavoro e quindi aumenta l'occupazione, mentre la disoccupazione non scende altrettanto. Abbiamo spiegato molte volte che l'occupazione misura chi lavora tra tutti quelli che potrebbero lavorare, la disoccupazione invece fotografa chi non lavora tra chi sta cercando un lavoro, chi vuole, quindi la differenza la fanno le persone che non cercano un lavoro per vari motivi, o perché disilluse, o perché demotivate, o perché ritengono per loro calcoli più interessante stare a casa. Ma insomma sono due dati diversi, quindi una spiegazione potrebbe essere dovuta al fatto che la disoccupazione scenda più lentamente perché aumenti il numero di persone che si mettono sul mercato del lavoro. Per quello che riguarda la parte della nuova fase, diciamo, e questa fase economica, ma che va accompagnata, oggi è intervenuto il presidente Confindustria Vincenzo Boccia, e al microfono del nostro Vincenzo Miglietta, margine del Rome Investment Forum, ha detto insomma adesso occorre una nuova fase e la crescita va attuata anche con investimenti pubblici. L'Italia non deve innanzitutto smontare le riforme che stanno avendo effetti sull'economia reale, il Jobs Act e il Piano Industria 4.0, che stanno dando risultati in termini di investimenti privati più 30% e di export più 7%. È un incremento di occupazione. Occorre passare alla seconda fase, che è attivare investimenti pubblici, micro e macro, sia di grande dotazione paese sia di collegamento dalle varie periferie alle città, e costruire una stagione di semplificazione. La dimostrazione che alcuni provvedimenti realizzano effetti sull'economia reale ci dice che il paese ha rilevanti potenzialità, e la crescita però deve essere considerata nel nostro paese una precondizione per contrastare diseguaglianze e divari e ridurre il debito pubblico. Un'economia forte si basa anche su un sistema del credito forte, e teme che le polemiche di queste ultime ore possano comunque far apparire un sistema delle banche in Italia più debole? No, questo no, però temiamo che a livello europeo ci possano essere delle regole che possono depotenziare i flussi di credito sull'economia reale. Ci riferiamo all'addendum sui cosiddetti NPL della BCE, che potrebbe ridurre il flusso di credito all'impresa, e ci riferiamo a un tentativo di una certa dottrina tedesca di pensare addirittura di accantonamenti da parte delle banche quando acquistano anche titoli di Stato. Queste due cose non sono fatti positivi come effetto sull'economia reale, vanno contrastate. Dall'altra parte occorre investire sulla crescita, perché se arriva la crescita arriva anche il credito. Ancora due notizie in breve, o meglio, sono anche più di due. La prima riguarda il rapporto dell'OCSE sui titoli di studio e le qualifiche in Italia, perché dice l'OCSE, attenzione, in Italia il 35% dei lavoratori è impiegato in posti che non sono correlati alla propria formazione, il che non è necessariamente, non va visto in maniera automatica, ci sono molti laureati magari in discipline umanistiche che svolgono altri lavori, è difficile che tutti i laureati in filosofia e in lettere insegnino filosofia o insegnino lettere. Però nel 21% dei casi, e questo invece è più grave, i posti che occupano risultano sovraqualificati, e qui allora il discorso cambia, vuol dire che il tuo titolo di studio è troppo alto, è più alto di quello che sarebbe necessario per il lavoro che svolgi. Ancora, questo significa una perdita media salariale del 17% circa rispetto a coloro che si specializzano in un'area con chiare opportunità di lavoro, e sostiene sostanzialmente che solo le competenze tecniche, ingegneristiche, tecnologiche e matematiche riescono ad avere una chiara corrispondenza tra titolo di studio e lavoro effettivamente svolto. Una buona notizia sulla vicenda Melegatti, che stiamo seguendo anche per il periodo natalizio, oltre che per i 90 dipendenti e i 350 lavoratori stagionali. Non sarà firmato l'accordo di cassa integrazione ordinaria, altri 5.000 pandori saranno sformati in un paio di giorni e poi nello stabilimento di San Giovanni Lupatotto inizierà la campagna per le colombe pasquali. Questa è una buona notizia. Tra l'altro, per non lasciare a casa nessun operaio, si è stabilito di proseguire la produzione natalizia per un paio di giorni in modo da sfornare appunto altri 5.000 dolci per lo spaccio aziendale, verranno venduti infatti proprio lì. L'altra notizia buona, nel senso, io sono d'accordo, stiamo parlando del minimo, non del minimo sindacale in senso letterale, riguarda Ryanair. La compagnia riconosce i sindacati dei piloti in Irlanda, in Regno Unito, in Germania, in Italia, in Spagna e in Portogallo, invitandoli a colloqui per legittimarli come organizzazioni rappresentative. Cioè ha ceduto Ryanair, anche perché, ragazzi, il danno che si stava generando, oltre che di immagine, anche di danè, di soldi, nel periodo dei voli delle vacanze natalizie, era inimmaginabile. Quindi Ryan ha detto sostanzialmente: riconosco le sigle, tant'è che l'ANPAC poi, come avete visto, ha sospeso lo sciopero dei piloti Ryanair. Poi c'è stata però la Fit Cheese, che ha detto: noi non abbiamo ricevuto nessuna lettera, e lo sciopero proclamato dalle 13 alle 17 di Ryan è andato avanti. Il ministro Calenda ha detto: beh, Ryan riconosce le sigle, è il minimo sindacale, non è una concessione e non basta. E poi ha chiesto, ha continuato Calenda, ai commissari di Alitalia di aprire una richiesta di informazioni su tutti i contributi che Ryan prende dalle regioni. Ora, anche qui, va benissimo, ci sono regioni e aeroporti che hanno deciso di puntare, il caso più classico, più eclatante, perché il hub più importante di Ryan è Bergamo, ma c'è anche Trapani, Pisa, Alghero, che hanno deciso di puntare sul low cost, su Ryan, per incentivare il loro aeroporto e il loro traffico aereo. Faccio notare che l'Italia è il paese da cui Ryanair ottiene il maggior numero di contributi, 100 milioni di euro l'anno, per il mantenimento e l'apertura di nuove rotte su questi scali. Quindi il caro O'Leary, invece che venirci sempre a raccontare con quell'aria da furbetto, no, che la sa lunga, inizia a rispettare i diritti dei lavoratori nei paesi in cui opera, con sta palla che, come sembra, i grandi colossi del web, no, tutto a Dublino. Dublino, praticamente l'Europa fa fanno tutti a Dublino. Lì sono tutti assunti a Dublino. No, se lavori in Italia o in Germania o in Spagna o in Portogallo, il contratto di lavoro è quello del paese in cui lavori, e tra l'altro, invece di far tanto lo spiritoso, potrebbe riconoscere, baciarsi le mani, perché non c'è paese che versi contributi pubblici più alti di quanto non fanno le varie regioni italiane a Mr. O'Leary. Allora, la Boschi, perché ne ha parlato anche Calenda, l'idea che la commissione di inchieste sulle banche diventi la commissione di inchieste sulla Boschi mi sembra una roba assurda. Quello che è un dato di fatto è che ieri Vegas è riuscito a distrarre l'attenzione da quelle che sono le sue responsabilità, e sono responsabilità vere. Quindi molto duro il giudizio di Calenda su Vegas. Devo dire che modestamente anche noi ieri abbiamo fatto notare che, al di là della vicenda politica dell'allora ministro Boschi, passava in secondo piano nell'audizione di Vegas, non neanche di Vegas, del suo vice direttore, l'ammissione che le comunicazioni tra Consob e Banca d'Italia erano difficili, lacunose, complicate e quant'altro, e che solo negli ultimi 3 anni sono migliorate sensibilmente. Guarda un po', sono arrivati i crack delle banche. Anche qui, senza essere manichei, uno può occuparsi politicamente del caso Boschi, ma stare attento, quando attribuiamo responsabilità, a non dimenticarsi del come mai le due principali autorità di vigilanza sui mercati non hanno fatto nulla, non sono riuscite a evidenziare in tempo crack della portata non solo delle quattro banche, ma anche di Vicenza e Veneto. Comunque, Calenda, No, perché non ha fatto pressioni e perché ieri quello che è successo è che ci si è distratti dal tema vero. Cioè Vegas ha tirato una palla in calcio d'angolo che non finisce mai. Vegas è quello che ha levato gli scenari di probabilità dalle obbligazioni subordinate, dove si sono persi un sacco di soldi gli italiani, hanno perso un sacco di soldi gli italiani, gli scenari che dicevano che rischio c'era di perdere i soldi. Ci fece un'inchiesta la Gabbanelli molto significativa, io ho interrogato su quello, ero appena stato ministro, dissi era un gravissimo errore. Ora qui l'idea che la commissione d'inchiesta sulle banche diventi la commissione d'inchiesta sulla Boschi mi sembra una roba assurda. Quello che è un dato di fatto è che ieri Vegas è riuscito a distrarre l'attenzione tra quella che sono le sue responsabilità e sono responsabilità vere. Ora, quindi il problema è Vegas, non è la Boschi. Il problema che è emerso, che c'è nella commissione delle banche è molto più ampio anche del solo Vegas, ovviamente. Ma ci sono delle responsabilità di Vegas e su quelle si doveva discutere. Perché se questa commissione, che sarà un gran macello sotto campagna elettorale, può avere un senso, è quello di stabilire come è nata la crisi delle banche e come ha danneggiato i risparmiatori. Ora, pensare che questa cosa sia nata, abbia danneggiato i risparmiatori per la Boschi è un'assurdità. E lo dice uno che non è che abbia un rapporto idilliaco con la Boschi, che quando deve dire qualcosa a Renzi gliel'ha sempre detta in faccia, e così con la Boschi. E allora anche l'intervento dell'ex numero uno di Veneto Banca, Vincenzo Consoli, che dice: il ministro Marina Boschi partecipò ad un incontro con i vertici banchetturi di Veneto Banca nella casa di famiglia ad Arezzo nella Pasqua del 2014, per un quarto d'ora nel quale non proferì parola, dopodiché si alzò e andò via. Avevamo appurato che l'Etruria aveva ricevuto una lettera simile alla nostra, tutti quanti a casa, e quindi volevamo capire qual era il loro comportamento, quindi questo fu l'origine dell'incontro. Siamo arrivati, abbiamo incontrato il signor Boschi, ci siamo messi a parlare delle vicissitudini di Veneto Banca e di Etruria, facendo i commenti che voi potete immaginare. Dopodiché arrivò il ministro Boschi, lei ci salutò, disse continuate a parlare. Noi abbiamo continuato a parlare, è stata lì con noi un quarto d'ora, non lo so, ma è stato un tempo brevissimo, dopodiché si è alzata e se n'è andata. Opportuno che vi fosse? Probabilmente no, anzi no, con quello che poi è successo, il crack è di un anno e di un anno dopo, e devo dire che quando ieri qualcuno veniva ricostruito il fatto che il padre della Boschi diventa vicepresidente in concomitanza con la nomina ministro della Boschi stessa, beh, a me sembra chiaro che col senno di poi è stata una, diciamo, non, voglio essere buono, una cavolata pazzesca, perché questa è una zavorra che politicamente... vedete, come sempre, io sono d'accordo con Calenda anche stavolta, perché tra l'altro nella battaglia politica è ovvio che i partiti hanno più interesse a attaccare il PD su questo che non a chiarire delle volte le responsabilità di Vegas e anche di chi nominò Vegas e della Banca d'Italia, perché fa parte della campagna elettorale, vai a attaccare l'avversario politico, non vai a attaccare chi non si candida verso le elezioni. Ma il danno è proprio questo, è che poi si finirà per parlare più di questo che delle responsabilità oggettive. Quindi col senno di poi è ovvio che fosse del tutto inopportuno. 349-238-6666 per sms e whatsapp, meteo, pubblicità e poi la classifica accorciata. State ascoltando un programma offerto da JP Morgan Asset Management. Focus Economia. La classifica della settimana. Ho classifica in forma ridotta per non sfinire gli ascoltatori nel periodo natalizio. Qualcuno mi chiede delle dichiarazioni però di Vegas anche su De Benedetti. Allora, ieri il... quindi aspettiamo un attimo con la classifica. Allora, ieri il presidente della Consob Vegas ha detto, tra le altre cose, alcuni giorni prima del decreto con cui il governo obbliga le principali 10 banche popolari, tra cui Veneto Banca e Popolare di Vicenza, a trasformarsi in SPA, quindi a perdere lo statuto particolare, scusate, le strutture particolari che avevano le banche sul territorio e quindi ed è voto capitario, quota minima disponibile, quota massima di partecipazione. Dicevo, alcuni giorni prima del decreto sulle popolari ci furono colloqui tra De Benedetti con il dottor Panetta della Banca d'Italia e con l'allora Presidente del Consiglio Matteo Renzi. Tra l'altro Vegas aggiunge, riporta anche l'esito di indagini condotte dalle autorità di vigilanza. Noi abbiamo fatto un'istruttoria, abbiamo archiviato la posizione di Renzi e De Benedetti, ha sottolineato il Presidente della Consob. Aggiunge inoltre che anche la Procura di Roma con il procuratore Pignatone ha avviato un'istruttoria. È stata archiviata la posizione di Renzi, mentre mi risulta che sia stata proposta l'archiviazione di De Benedetti, anche se non è stata ancora convalidata dal GIP. Così rispondendo a una domanda del vicepresidente della Commissione Renato Brunetta. Da questo punto di vista, il capogruppo Brunetta poi ha aggiunto: dopo questa audizione la mia personale valutazione è che sia in merito al decreto sulle banche popolari, con la vicenda dei Benedetti e i suoi 5-6 milioni di euro investiti poco prima del decreto proprio sulle 10 banche coinvolte dal decreto stesso, sia sul caso Boschi Vegas ci sia stata improntitudine da parte di chi era al governo, dice Brunetta, Renzi compreso, è una grave mancanza di trasparenza, forse dovute anche ad una mancanza di esperienza. Un portavoce dell'ingegnere De Benedetti invece dice si è trattato di normale interlocuzione istituzionale che l'ingegnere intrattiene da sempre con tutte le istituzioni nella sua qualità di imprenditore. La Procura di Roma non ha istituito e ha precisato oggi alcun procedimento a carico né di Matteo Renzi né di Carlo De Benedetti, e in questo caso smentendo, visto che l'agenzia di poco fa, quelle che erano state le dichiarazioni di Vegas di ieri. Diciamo una cosa, la gestione Vegas della Consob non verrà ricordata come un esempio da studiare nelle scuole, nelle istituzioni, e anche il modo in cui stanno battibeccando Consob e Banca d'Italia è obiettivamente poco edificante. Ma poco edificante non è nel merito, poco edificante è che nessuno ammette che le cose non hanno funzionato, nessuno ammette un minimo di responsabilità, tutti a pensare a salvare la Cadrega. Vabbè, andiamo alla nostra classifica. Oggi ridotta al medagliere, al terzo posto, quindi medaglia di bronzo, una bronzo inteso anche come faccia di bronzo, per Annunziata Rinaldi di Teverola, a 59 anni. Voi sapete che anche quando i soldi non sono tantissimi, da sempre conduciamo una battaglia contro chi abusa dei diritti sacrosanti per chi è invalido, per chi è un parente di un invalido, quindi ha la 104, perché troviamo una cosa particolarmente vergognosa, perché vai a togliere risorse e approfittarti di una legislazione che esiste per chi sta veramente male. Allora, lei, Teverola, provincia di Napoli, ha 59 anni, ha goduto di indennità pubbliche per una malattia mai avuta, percependo complessivamente 270.000 euro in questi anni. Grazie a medici compiacenti che hanno continuato a coprirla anche dopo che l'indagine penale era pienamente avviata. L'ordinanza la firma il GIP di Napoli Nord Fabrizio Finamore. La donna è stata messa in misura cautelare e quindi obbligo di dimora, mentre, e dico finalmente, ogni tanto anche i medici che firmano i falsi certificati iniziano a subire le conseguenze. La misura ben più grave dei domiciliari per il medico psichiatra del Dipartimento di Salute Mentale dell'AS, Vincenzo Noviello, 64 anni, ha firmato parte dei certificati falsi, sospeso dal servizio nel 2015 dopo una serie di condanne per vari reati. Prima del 2005 la 59enne ha ricevuto l'indennità di accompagnamento, da quella data in poi ha maturato gli anni per la pensione, ha ottenuto ogni mese due pensioni, quella di invalidità e quella per i lavoratori dipendenti. Come se ne sono accorti? Beh, se ne sono accorti perché lei, avendo anche un'invalidità da schizofrenica, patologia assolutamente grave e seria, guidava tranquillamente l'auto. Ora, a quel punto, i carabinieri si mettono in moto e vanno alla motorizzazione civile, si accorgono che la donna possiede una patente valida e a questo punto partono le indagini. Gli inquirenti convocano il medico, che ha dato nulla osta per il rilascio del documento. che è il risultato all'oscuro della falsa malattia, e ha detto: guardate, io gli ho dato la patente perché se fosse stata schizofrenica sarebbe stato impossibile dargliela, è incompatibile con la guida. Fanno a quel punto una verifica e scrive il GIP: il quadro, l'esito della verifica è sconcertante, in quanto i tre medici liberi professionisti incaricati dalla ASL di effettuare gli accertamenti hanno confermato che la donna era affetta da schizofrenia basandosi, sentite questa, su documenti presentati dalla 59enne, ovvero le dichiarazioni del marito, peraltro neppure identificato. Cioè mio marito dice che sono schizofrenica, capito? Magari sta con le scatole girate, ti sta insultando, no, neanche identificato. I certificati di Noviello risultati falsi e recanti timbri dell'ASL dell'ospedale Moscati di Aversa. Tutti e tre i professionisti sono indagati. Questo lo dico perché quando mi si parla di società civile, sempre meglio della politica, la unisco a un'altra medaglia di bronzo, i furbetti del terremoto ad Ischia, perché sta emergendo, stanno facendo le indagini, che tutti i contributi, 400 euro per i nuclei monofamiliari, 500 per due unità, 700 per tre unità, 800 per quattro unità, fino a un massimo di 900 euro mensili per i nuclei composti da 5 più unità, hanno diritto a questo ristoro solo quelli che la cui casa danneggiata è la casa dove vivono, dove risiedono. Sapete che sta capitando a Ischia? Che stanno facendo domanda per il ristoro molti cittadini che sono semplicemente vacanzieri, cioè hanno la casa al mare ad Ischia. Traffico poi secondo e primo posto. Focus Economia. Allora, mi scrivo: Taverola è in provincia di Caserta, chiedo venia. Taverola è in provincia di Caserta, non in provincia di Napoli. Andiamo al secondo posto, e qui purtroppo non ho moltissime novità perché devo tornare a parlare tra secondo e primo posto di una coppia di gemelle. Allora, secondo posto l'ATAC, lo dico con un po' di sconforto perché vorrei trovare altri casi, ma insomma l'ATAC ha due problemi, i nuovi problemi sono: da un lato c'è un allarme per i biglietti. Il biglietto integrato a tempo è in calo anche a settembre, quindi 7 milioni e mezzo i titoli venduti nel mese dopo il calo estivo. L'anno scorso erano 8 milioni, 500 mila in più. Continua a calare il numero dei biglietti e confrontando i due anni di stacco e settembre, la crisi dei biglietti sta galoppando. Tra agosto e settembre 2016 la differenza delle vendite è stata di 2 milioni e 200 mila biglietti sullo stesso periodo del 2017, quindi 1 milione e mezzo lo stacco, 700 mila biglietti in meno, che a 1,50 euro fa circa 1 milione in meno in cassa. Questo nonostante l'ATAC avesse parlato per il 2017 di un aumento del 53% dei biglietti rispetto all'anno precedente. Allora, i motivi del crollo dei biglietti ATAC, che è la municipalizzata di Roma e Trasporti. Allora, l'utenza prende meno mezzi, anche perché i ritardi, i problemi dei guasti, metropolitana, autobus, è chiaro, non è che proprio rappresentino un incentivo. Due, il numero di fruitori potrebbe essere anche non così variato. Il problema che si evita di pagare il biglietto, questo perché le macchine obliteratrici, adesso questo fa parte anche della civiltà, però se hai le macchine obliteratrici spesso guaste e i controlli non sono capillari, è ovvio che aumenta anche l'evasione. Tra l'altro il presidente, il delegato, il direttore generale di ATAC, Paolo Simioni, ha fatto della lotta all'evasione tariffaria una battaglia, diciamo, cruciale nel risanamento dell'ATAC, assieme all'entrata in vigore del nuovo piano industriale che prevede più ore di lavoro e turni. Ora slitta tutto al gennaio 2018, intanto i conti peggiorano. E poi c'è un altro buco dell'ATAC, o meglio, continua a perdere soldi anche dalla gestione dei parcheggi. Questa vicenda è allucinante perché con il dissesto che ha l'ATAC, allora per i lavori necessari alle autorizzazioni dei Vigili del Fuoco è stato chiuso il parcheggio di Via Chiana. È il quarto parcheggio gestito dall'ATAC chiuso in due anni, dopo Metronia, Ella Main e Cornelia. Questo vuol dire un mancato introito di 5 milioni di euro e rischiano di chiudere anche i parcheggi Trastevere e dell'Auditorium. Che cosa è successo? Tra l'altro nel 2010 hanno chiuso, tra il 2010 e il 2016 hanno già chiuso appunto Metronio, ma soprattutto Circonvallazione Cornelia e Piazza Gutierrez Main. I parcheggi tra l'altro hanno un problema, va fatto una manutenzione e fruirebbero a pieno regime, garantirebbero all'ATAC 5 milioni di euro l'anno. Il problema è che l'ATAC, avendo un concordato fallimentare, resta con le casse bloccate e non può permettersi di sborsare i 150.000 euro previsti per gli adeguamenti. Senza quei permessi però gli abbonati vengono sfrattati perché non viene data l'agibilità del parcheggio. La cosa incredibile è come viene comunicato agli abbonati, cioè a chi ha pagato per essere lì. I 400 abbonati della struttura di Via Chiana hanno iniziato una raccolta firme per scongiurare la chiusura del parcheggio più grande del quartiere, e che è un tentativo estremo perché senza gli adeguamenti, insomma, obiettivamente è difficile che i Vigili del Fuoco ti diano l'agibilità. Sono stati avvisati, questo è incredibile, una settimana prima. Un avviso non firmato lasciato sul parabrezza delle auto con scritto: dalle ore 00:00 del 17 dicembre questo parcheggio sarà temporaneamente chiuso per lavori di ristrutturazione. E tra l'altro non si fa, come fanno notare gli abbonati, un riferimento ad una data, cioè dico verrà chiuso, ma fino a quando? Boh, non si sa. E oltre a questo c'è il danno economico per l'ATAC. Dopo il GR24 e prima di arrivare alla tassazione dove pagano le tasse i giganti del web e alla borsa, vi darò anche il primo posto in classifica. State ascoltando un programma offerto da JP Morgan Asset Management. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Prima di arrivare a startup, borsa e tassazione del web, al primo posto della classifica, qualcuno di voi l'ha già capito perché ho parlato di gemelle. Comunque andiamo al primo posto della classifica. And the winner is... Torna al primo posto della classifica l'AMA, che è l'azienda municipalizzata per la nettezza urbana di Roma. Perché lo dico? Guardate, la storia è incredibile. Nonostante le dichiarazioni, nonostante tutto quello che doveva prevedere il nuovo piano, l'AMA non riesce a raccogliere le foglie a Roma. C'è questa particolarità a Roma come in altre città: ad autunno cadono le foglie. So, è strano, mi rendo conto, era Ungaretti, se non ricordo male, che diceva: si sta come d'autunno sugli alberi le foglie. Poi poesia che si chiama Soldati, vado a memoria, però e poi queste foglie cadono, e quindi c'è anche a Roma come in altre città il problema tra novembre e dicembre. Leggo testualmente: l'opera di pulizia dei marciapiedi, dei tombini e delle caditoie è stata intensificata per i mesi invernali a partire da novembre, periodo in cui si accentua il fenomeno di caduta delle foglie. Ma non è che si accentua, tendenzialmente da bambini si imparava le foglie cadono in autunno. E fino a fine gennaio verranno effettuati 8.261 passaggi su oltre 1.000 strade per un totale di 8.845 chilometri. Bene, quindi, no? Questo era quello che prevedeva ancora la scorsa settimana, incalzato anche dalle critiche di una città ricoperta di foglie. Tra l'altro le foglie, oltre che essere pittoresche, fare molto autunno, sono pericolose. Intanto... chiaramente ostruiscono i tombini e le vie, ma sono pericolose anche per i pedoni. Allora, l'assessore all'ambiente Pinuccio Montanari aveva annunciato gli straordinari. Roma Capitale e AMA hanno sviluppato una programmazione mirata e ciclica di interventi di spazzamento e rimozione del fogliame su 1035 strade alberate. Venivano previste solo nel mese di dicembre più di 100 squadre di operatori AMA al lavoro per attività di spazzamento e rimozione delle foglie, operazioni svolte ogni giorno principalmente nelle ore notturne con spazzatrici, aspiratrici ed altre attrezzature specifiche. Ora, nulla di tutto questo, alla fine Ama si arrende e che cosa fa? Va a appaltare all'esterno il servizio di raccolta delle foglie, perché prende atto dei numeri, poco personale, pochi mezzi per risolvere il caso foglie, si possono spostare anche delle persone da una parte all'altra e non lo proibisce la legge né la Costituzione, perché se andiamo a vedere i dipendenti di Ama non è che siano proprio quattro gatti, questo aggiungo io. Per risolvere il caso foglie che si trascina ben oltre i mesi autunnali, e certo se non le pulisci queste restano lì, non evaporano, non abbiamo ancora la smaterializzazione delle foglie, e allora viene pubblicato il bando di gara per cercare rinforzi esterni. L'appalto aggiudicherà 13 milioni di euro per 2 anni, quindi dal prossimo anno l'intero pacchetto strade viene affidato all'esterno, sia al servizio di raccolta foglie in tutti i 15 municipi, scusate, sia l'attività di estirpazione, sfalcio e diserbo presso le strade, marciapiedi, parcheggi, aree pubbliche e private soggette a uso pubblico, anche questo appaltato all'esterno. La raccolta foglie, leggo testualmente, in particolare dovrà articolarsi lungo 3 momenti nell'arco dell'anno. A maggiore e minore intensità di caduta, interventi continuativi proprio per evitare sorprese dell'ultimo momento con l'avvicinarsi della stagione invernale. Al di là di questo editto che sembra dichiarazione di guerra, il dato di fatto è questo. L'AMA, oltre che già costare, costerà 13 milioni di euro in più per 2 anni perché non ha personale a sufficienza per raccogliere le foglie. I privati che vinceranno l'appalto e i cittadini che contribuiscono con le loro tasse all'AMA ringraziano. Dico così perché, ma nessuno ha detto che è colpa della Raggi, è da 3 anni che parliamo, 4 anni da quando c'è la classifica dell'ATAC e dell'AMA, c'era un altro sindaco, è inutile che ci proviate. Stefano Guerrieri, 38 anni, uno dei 3 fondatori di Playwood, buonasera. Buonasera a tutti. Cosa fa Playwood, quando è nata, chi vi ha aiutato e quanti anni ha lei? Io ho 38 anni e Playwood è un sistema innovativo di arredo modulare che permette di combinare connettori e pannelli per realizzare tavoli, librerie, panche, sgabelli e molto altro. Sostanzialmente un Lego per gli adulti. Il progetto è nato nel 2014 e poi abbiamo seguito la strada come startup con il percorso di accelerazione nel Venture e adesso siamo finanziati da 2 importanti fondi italiani, il Venture Group e Primo Miglio. Quindi vi hanno aiutato non le banche ma fondi dedicati, se ho ben capito, no? Sì, lavoriamo con fondi di venture capitalist che ci supportano sia dal punto di vista formativo sia con risorse in capitale di rischio. Come sta andando il giro d'affari? Nel senso che voi siete giovani, tra l'altro vorrei capire com'è nata l'iniziativa, ma come sta andando il fatturato e se avete assunto qualcuno? Beh, noi assumiamo circa 1 nuova persona al mese, ora come ora. E il nostro giro d'affari adesso quest'anno, il nostro prodotto è sul mercato da circa 1 anno e mezzo, vendiamo in 20 paesi, il giro d'affari di quest'anno è intorno ai 200.000 euro, l'anno prossimo dovrà essere 5 volte tanto. Il nostro prodotto è nato perché passavamo tantissimo tempo in ufficio e credevamo dovesse essere un posto bello, che migliorasse il nostro lavoro. Volevamo l'ufficio come quello di Google, ma avevamo un budget da IKEA. Quindi ci siamo inventati un sistema di arredo che permettesse a chiunque di personalizzare il proprio ambiente, di renderlo suo e di customizzarlo in base alle proprie esigenze. E quindi 250.000 euro quest'anno, e vi aspettate che quadruplichi l'anno prossimo? Assolutamente sì. Bene, insomma, è un obiettivo ambizioso. Ma vi aspettate anche un aiuto da parte delle banche a questo punto? Con le banche tendiamo a lavorare abbastanza poco perché la nostra storia è breve, quindi spesso non abbiamo accesso a un credito tradizionale, lo abbiamo minimo, quindi preferiamo chi ci può aiutare da tanti punti di vista, sia dal punto di vista economico ma anche a fronte di network e competenze che ovviamente in un'azienda piccola che sta nascendo spesso mancano e vanno integrate. Allora, mi dica solo una cosa però, visto che c'era il rapporto OCSE che citavamo in apertura sul mismatching, sul fatto che il 35% dei lavoratori faccia un lavoro che non rientra con la qualifica che ha preso come percorso di studi e tra l'altro nel 17% dei casi con stipendio più basso, voi in che cosa vi siete laureati o diplomati? Oddio, noi abbiamo fatto quasi tutti una strada zigzag, è vero, io sono laureato in economia, ma poi ho preso un master in design e ho lavorato tanto tempo nella pubblicità. Mirko, co-founder come noi del progetto, ha una laurea in product design, ma ha lavorato anche all'interno di catene di ristoranti. Carlotta ha lavorato per ONG internazionali a Bruxelles e adesso segue, diciamo così, tutta la nostra parte offline e di retail, grazie a altre competenze specifiche che ha acquisito con altri lavori. Quindi sì, l'importante è fare quello che ti piace, ma come ci arrivi spesso non è una strada rettilinea. Ma non è mai così, la strada non è mai rettilinea da questo punto di vista, però questo ha maggior ragione con quello che sta capitando sul mercato del lavoro. In ogni caso, in bocca al lupo a lei e appunto a Stefano Guerrieri, a Mirko e Carlotta, e soprattutto nell'augurio che continuate ad assumere almeno una persona al mese, grazie anche ai fondatori di Playwood Traffico. Focus Economia. ...18-19 minuti, ultima parte di Focus Economia. Dico un ascoltatore: ah, lei adesso segue la rimozione delle foglie solo a Roma, mica in tutte le città italiane. Guardate che sulla classifica noi seguiamo non la rimozione delle foglie, i costi che ci sembrano sprechi o sprechi a essere buoni. Allora, il fatto che l'AMA debba appaltare per una cifra del genere, 13 milioni, fuori la raccolta delle foglie nella città di Roma, io non so se sia possibile utilizzare i migranti, come mi scrive qualcuno, dico solo che è una sconfitta. Sono 7 milioni e mezzo per 2 anni per far raccogliere le foglie, dai. Allora, la borsa oggi la faccio io, male Ferragamo, perché ha emesso una forte cautela sui conti 2018 e sulla possibilità di raggiungere gli obiettivi a medio termine, perde il 6,30% il titolo. Poi un po' di flessioni sui bancari, in particolare BPM meno 2,30%, ma anche Unicredit meno 1,80%. Meglio invece altri bancari, UbiBanca perde lo 0,50, come BPerBanca, Intesa San Paolo meno 0,21%. Non c'è una notizia forte, c'è ancora un po' di riflessione su come gestiranno le sofferenze, o meglio gli NPL, dopo le richieste avviate dalla Banca Centrale Europea. Mediaset, attenzione, nel giorno dell'assemblea più 1,23%. Bene Poste Italiane, dopo l'accordo con la Cassa Depositi e Prestiti per un servizio di raccolta del risparmio postale nel triennio 2018-2020, più 4,1% le Poste, Moncler più 1,50%, A2A più 1,30%, Mediaset più 1,20%. Migliori e peggiori in assoluto: Trevi Finanziaria meno 7,70%, Ferragamo appunto meno 6,30%, Cofidespa meno 5,40%. Migliori: Ecosantec più 17,80%, KR Energy più 14,70%, Mer Tecnimon più 4,50%. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. E allora, è o non è la volta buona che almeno cambi la tendenza nel non far pagare le tasse? Ma non è che non le vogliamo far pagare, i trucchi che mettono in pratica i grandi colossi del web e le falle nella legislazione europea che consente paradisi fiscali de facto, non una lista nera per carità, ma Dublino, Lussemburgo, Liechtenstein, fanno sì, come abbiamo raccontato molte volte, che non vengano pagate sostanzialmente le tasse, se non diciamo parti ridicole, in Europa. C'è, e nel caso specifico anche in Italia, nei paesi dove questi gruppi fanno i ricavi. C'è un accordo di Amazon con il fisco italiano e da qui partiamo. Allora, le cifre sono chiare. L'anno scorso, ma le voglio ripetere, Twitter ha pagato tasse in Italia per 170.000 euro. Stiamo parlando di l'equivalente di un ricco professionista. Airbnb Italy ha pagato tasse complessivamente per 60.000 euro. Stiamo parlando di un medio professionista italiano che, insomma, se fattura 120.000 euro paga quasi 60.000 euro di tasse contributi. TripAdvisor ha pagato 20.000 euro di tasse. Qui stiamo parlando di un impiegato neanche con una grande qualifica. E poi, come se non bastasse, insomma, Facebook l'anno scorso ha pagato 260.000 euro. Voi dite, ma quanto fattura? In Italia, secondo stime di mercato, fattura 700 milioni di euro. Il problema è che se tu triangoli con Dublino e dici che in realtà i ricavi non li ha generati l'Italia, ma li ha generati Dublino, vai sulla tassazione di Dublino e qui... il rapporto della Commissione Europea fa notare come i big della tecnologia paghino meno della metà delle tasse versate da chi invece opera nell'industria normale. Un'azienda digitale è sottoposta alla fine a una tassazione del 10% a fronte del 23% delle compagnie tradizionali. In Gran Bretagna l'aliquota che grava su Amazon, questo è scandaloso, è 11 volte più bassa rispetto a quella che paga una libreria vera, tradizionale. In Irlanda nel 2015 Apple ha pagato in tasse lo 0,005% dei suoi profitti grazie ad accordi contro un'aliquota del 12,5%. C'è notizia oggi perché Amazon ha detto che verserà 100 milioni di euro al fisco italiano. Ringrazio Alessandro Galimberti che già ne ha scritto anche in merito all'accordo di Facebook, che ha detto contabilizzerò i ricavi laddove li realizzo. Buonasera Alessandro. Buonasera a te, gli ascoltatori. Il tema non è solo di equità fiscale, in primo luogo di equità fiscale, ma anche di, nel medio termine, di dare allo Stato le risorse per gestire una trasformazione digitale, una rivoluzione digitale, di cui questi giganti sono i leader, i paladini, e ci guadagnano. Si distruggono però nel frattempo posti di lavoro, c'è una transizione. Sentite il ragionamento che ha fatto qui nel corso del decimo anniversario del programma di Radio 24 Storiacce, lo scorso 5 ottobre, il procuratore di Milano, Francesco Greco, definendo il rapporto tra gli stati e i giganti del web una guerra di sopravvivenza. Il nuovo mondo, che spero non si fondi sull'evasione fiscale, francamente, il nuovo mondo è un mondo che sta generando la fine di tutta una serie di situazioni economiche, cioè il terziario avanzato è destinato a morire, se non è già morto, banche, assicurazioni, uffici e quant'altro. Avremo, a mio avviso, una quota come dire, strutturale di disoccupazione, e gli stati si dovranno porre il problema di finanziare il welfare. E se non lo finanziano con le tasse e con le tasse e gli enormi profitti realizzati anche da questi gruppi, come faranno a tirare avanti? Ecco, quindi non è che stiamo parlando di etica, qui stiamo parlando di sopravvivenza, che è una cosa diversa. Allora, Alessandro Galimberti, perché sei molto scettico sull'efficacia dell'accordo di Amazon che verserà 100 milioni di euro al fisco italiano, così come del fatto che Facebook passerà a una struttura di vendita locale, quindi contabilizzare i ricavi laddove li realizza? Allora, io in realtà sono molto scettico sulla dichiarazione molto accomodante che ha fatto Facebook l'altro giorno, però si intreccia con il discorso di Amazon di oggi, perché finora hanno fatto festa i gruppi digitali, come ricordavi tu prima, con delle percentuali misere di pagamento di tributi laddove producono il valore, in Europa, e l'Europa la principale vittima al mondo di questa elusione fiscale. Finora è stata una festa senza regole. Adesso stanno cambiando le cose, perché Facebook l'altro giorno e Amazon oggi, in realtà Amazon l'aveva già fatto 2 anni fa ma oggi l'ha certificato, definiscono di avere una stabile organizzazione nel paese dove producono reddito. Finora hanno detto è cosa del vecchio mondo, l'old economy, noi siamo digitali, siamo senza frontiere, e questo era il modo migliore per metterla in barba a tutti. Hanno detto questa cosa. L'altro giorno, scrivendo su Sole 24 Ore, forse l'unico giornale che si è permesso di fare questa riflessione, dicevo: attenzione, stanno rientrando nella tassazione del vecchio mondo, dove da decenni le multinazionali hanno meccanismi elusivi ugualmente efficaci, non a livelli di festa del fisco di cui parlavi prima, ma molto vicini. Perché Parliamo di Facebook e poi torniamo su Amazon. Facebook dal 2016, dall'anno scorso, ha in Inghilterra, nel Regno Unito, quella stabile organizzazione di vendita pubblicitaria. Bene, ha pagato tasse per 2 milioni e mezzo di sterline. Un successone? Forse no. Come si riesce ancora a ottenere un risultato così favorevole? Facebook è nella UK, nel United Kingdom, ma Gran Bretagna ha una marginalità del 7%, 7% di marginalità, cioè di guadagno, mentre nel resto del mondo la media mondiale di Facebook è del 45%. Dove sta il miracolo? In un vecchio trucco che si usa da secoli, che si chiama trasferimento dei prezzi, il transfer pricing. Cosa vuol dire? Che nei paesi dove c'è la fiscalità alta, le multinazionali trasferiscono molti costi da dedurre, molti costi, così abbattono. E siccome le vecchie tasse del vecchio mondo si pagano sul reddito, allora Facebook, io non trovo un motivo per cui in Italia dovrà agire diversamente, o in Francia o in Germania, di come ha agito. Tu dici, caricherà dei costi da poi scaricare, diciamo, sui bilanci italiani altissimi. Quindi i margini saranno molto più bassi, e quindi in le tasse, non faccia, l'aliquota non del 27 faccia, sì, perché è incredibile pensare che fai 40% di margine nel resto del mondo, poi in Gran Bretagna, paese notoriamente efficiente, fai solo 7. Allora Amazon oggi ha chiuso un accordo, pagherà dal 2011 al 2015 100 milioni perché gli è stato ricalcolato il reddito quando non aveva una stabile organizzazione, ma si apre da domani un'altra partita. Amazon adesso sta facendo un ruling internazionale col fisco per determinare il trasferimento di prezzi. Allora l'agenzia dovrà vigilare che, risolto un problema, la stabile organizzazione non si ritorni da capo con la old economy, certo, a non pagare le tasse. Il sistema non è evasione, come dice Greco, che ovviamente è un procuratore della Repubblica a cui si devono tutti gli accordi che vediamo firmati oggi, 300 milioni Google, 300 milioni Apple, 100 milioni Amazon. Non è evasione, è elusione. Non è finita la festa, semplicemente cambiano un po' le regole per i grandi player digitali, adesso rientrano nel vecchio mondo delle multinazionali e non è detto che pagheranno tasse. Ma su una cosa su tutte, tu facevi notare come il vero paradiso sia l'Europa, è perché in qualche modo ci siamo tirati anche la zappa sui piedi. Quando tu permetti, non riesci ad avere un'armonia, armonizzazione fiscale, io non voglio aumentare le tasse come scrive qualcuno, voglio che le tasse attuali, come le pago io, come le paga Negri, come le paga il commerciante quando le paga, le paghino anche i colossi, fine. Poi se si riuscirà a abbassare, ben venga. Grazie anche a Alessandro Galimberti, grazie a Mauro Del Corno e Barbara Bianchi come sempre per l'assistenza in redazione e in studio. Da Sebastiano Barigioni le auguro un buon fine settimana, soprattutto per chi dovrà passare lavorando. Ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi. Radio 24, libera la voglia di fare.